Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci qui, in viaggio verso l'economia sociale, in Sargante il traghettatore. Questa puntata a bordo abbiamo delle donne, in realtà, per una volta sono solo, forse non per una ma per la seconda volta che sono solo donne. L'altra volta abbiamo parlato del tetto di cristallo della donna in carriera, questa volta invece vogliamo parlare della mamma. Sappiamo bene che è un argomento al limite dell'ortodossia, del gusto parlare della mamma, c'è sempre molta ironia quando si cita la mamma italiana, ma in questo caso invece gli argomenti sono molto seri. Vittima e persecutore insieme, ma non è romanticismo da sindrome di Stoccolma. Si chiama giustizia restitutiva. I peccati della mamma malandrina ricadono sui figli in tenera età? Sì, a meno che il carcere sia senza sbarre. C'è un'altra mamma che viaggia con l'elmetto in testa, quella dei blog, e vuole cambiare le regole del mercato. Parliamo di mamme, cosa c'entra con l'economia sociale? C'entra per due aspetti. Primo aspetto, perché sono comunque sempre le imprese ad essere protagoniste, anche imprese no profit, della difesa del ruolo e del sostegno alla mamma. Secondo, perché comunque esiste un problema in impresa che riguarda le donne che decidono di avviare la splendida esperienza della maternità. Marcella Reni, che è qui con noi. Salve Marcella Reni. Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori. Anzi, dovrei dire presidenti, perché lei è presidente dei notai, sì. No, della sua zona, che è? Palmi, Reggio Calabria. Bello, che bellissimo. Poi è anche presidente di Prison Fellowship Italia, che è proprio quello di cui parliamo. Qui è il primo dei nostri titoli del sommario, detenute vittime insieme per un nuovo modello di giustizia che si chiama restitutiva, il progetto Sicomoro. Che cos'è esattamente? Il progetto Sicomoro nasce nell'ambito della Prison Fellowship International, che è un'organizzazione, una onlus, che si occupa di detenuti, ex detenuti, delle vittime e delle loro famiglie. All'interno di Prison il progetto Sicomoro è una delle tante attività, diciamo quella più rilevante e sulla quale l'Italia scommette, la Prison Italia scommette. Detenuti e vittime insieme. E beh, è assolutamente singolare, ma ci sono delle esperienze in questo senso in atto in questo momento? Queste esperienze in tutto il mondo sono in 115 paesi al mondo, in tutti e 5 i continenti. In Italia, proprio a settembre, partiremo con il carcere di Velletri e proprio ieri abbiamo chiuso l'accordo con il direttore del carcere di Opera in Lombardia. E poi ancora Paola in provincia di Cosenza in Calabria, Ferrara e probabilmente anche in Campania. Ecco, non è un vezzo, non è un voler spaccare il capello e quattro, quello di far incontrare la vittima con l'aguzzino, c'è una, come dire, è un piccolo, un primo passo che però può portare molto lontano. Ascoltate. This is Medellin in Colombia. Questa è Medellin in Colombia, che è conosciuta come una delle città più pericolose al mondo e che ospita allo stesso tempo la prigione di Bellavista, una delle carceri più sanguinose e con il numero più alto di assassini. I'm here in Bellavista Maximum Security Prison in Medellin, Colombia. Mi trovo qui nel carcere di massima sicurezza di Bellavista, Colombia. Lavoro come volontaria del Prison Fellowship. Sono 13 anni che lavoro qui ed è stato certamente Dio a indirizzarmi su questa strada, dove regna la cultura della morte. Voglio dire, la morte in questo luogo è proprio uno stile di vita. In questa stanza ci sono detenuti appartenenti a tutte le fazioni che combattono in Colombia. Paramilitari, guerriglieri, delinquenti comuni, mafiosi, poliziotti, soldati che hanno commesso dei reati. Ma la maggior parte dei giovani che vedete qui sono in carcere per omicidio. Uccidere per loro è stata una ragione di vita. Killing is a way of life. Tu fidelidad es grande. And God did do something really big. Ma Dio ha fatto qualcosa di davvero grande in questo carcere. Oggi viene diffusa una radio evangelica dalle casse della prigione. Sono stati creati una scuola per lo studio della Bibbia, una cappella in giardino. Ed è nata una vera e propria chiesa dietro queste sbarre. Tu fidelità es grande tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Ciò che Dio sta facendo per la nostra chiesa dietro le sbarre è davvero coinvolgente. Tutti i fine settimana si legge il Vangelo, si prega e c'è la messa, e viene fatto tutto dai detenuti. Centinaia di loro hanno cominciato a credere e si sono convertiti al cristianesimo. Questa bellissima scheda, se si può definire così, una scheda dove si parla di morte come stile di vita, era curata Anita Panizza, Presidente, ci porta ad un aspetto che volevamo approfondire, che è quello della donna in carcere, anzi della mamma. Noi non siamo messi malissimo se vogliamo affidarci come al solito delle percentuali, che secondo me poi non sempre ci azzeccano. Comunque, rispetto ad altri paesi, le donne in carcere in Italia non sono moltissime. La percentuale oscilla da sempre tra il 4 e il 5% in totale, non ha mai superato la soglia del 5%, mentre in altre posizioni europee, anche Spagna e Portogallo, hanno una maggiore presenza di donne. E in quest'ambito, nell'ambito poi c'è la donna e poi ci sono le mamme. Ecco, la cosa che fa impressione, che abbiamo citato poi anche nel sommario, è che ci sono i figli, queste mamme spesso capita, hanno anche portato avanti delle gravidanze e nascono dei bambini, dei neonati, che sono costretti a vivere in carcere, così? Attualmente in Italia ci sono 70 bambini al di sotto dei 3 anni di età che si trovano in carcere con le loro madri, sia in prigioni interamente femminili, sia in sezioni che sono ospitate invece all'interno di prigioni maschili. E questo è terribile, no? Perché sì, questi bambini non hanno nessuna colpa, va da sé, ma crescere in quell'ambiente lì è tragico. D'altronde la madre non può essere assolta in quanto tale, quindi bisognerebbe creare delle strutture. Ma è necessario che nei primi anni di vita del bambino si creino le condizioni per favorire un atteggiamento di sicurezza e di fiducia, e bisognerebbe proprio attenuare gli effetti negativi della detenzione della madre, perché altrimenti gli effetti negativi di questa detenzione poi per sempre andranno a sviluppare e a incidere sia sulle competenze relazionali, affettive, ma anche su quelle cognitive del bambino. Ecco, anche in questo però lei ha qualcosa da dirci. Adesso sentiamo anche una testimonianza di un imprenditore. Ci sono delle mamme che hanno la fortuna di uscire, di vivere un'esperienza del carcere, ma fuori, ma senza le sbarre, diciamo così. È un progetto che noi chiamiamo proprio Carcere senza sbarre, fraternità e maternità in libertà. E in alcune case, alcune ville che sono state sequestrate alla mafia, noi desideriamo costruire, e siamo alla fine di questo percorso, un carcere senza sbarre. In uno di questi ambienti abbiamo creato un carcere all'aperto, nell'altro un asilo dove i bambini possono frequentare l'asilo con i bambini delle mamme non detenute, in una completa integrazione, e poi queste mamme saranno avviate al lavoro. E quindi vivere la normalità. Grazie Presidente, arrivederci. Arrivederci a lei. Grazie. E a proposito di mamme e di esperienze del lavoro, di mamme detenute che vivono l'esperienza del lavoro, abbiamo in linea Piero Picchi. Salve Piero Picchi. Salve a lei e salve a tutti gli ascoltatori. Lei è un imprenditore, un'azienda tessile in Toscana, ed è un imprenditore illuminato, mi consente, perché lei ha aperto le porte della sua azienda ad alcune mamme detenute che vengono da lei. Cosa succede? Perché vengono da lei? Cosa fanno? Che cosa fa lei per loro? Dunque, intanto non ho aperto ancora le porte. Aprirà, bene. Ma aprirò, perché si tratta di un progetto. Sono stato contattato da Salvatore Martinez, che è il presidente del Rinnovamento nello Spirito della Comunità. Esattamente, per questo progetto di cercare di inserire queste mamme detenute. Mamme, queste senza sbarre. Senza sbarre. Quindi lei cosa fa? Gli dà lavoro sostanzialmente? Dovrei occuparmi di alcune ville che sono state requisite alla mafia, e qui creare dei laboratori e istruire le mamme a lavorare, a insegnare intanto a queste donne un lavoro, un mestiere, dargli delle piccole commesse e cercare di istruirle per crearsi un lavoro e poi anche lasciarle lavorare o in cooperativa o insomma dargli un futuro sostanzialmente dare, e i bambini dare un futuro, ecco. Dare un lavoro, un insegnamento. I bambini, i figli di queste mamme sono lì accanto in un, ci sì. sono questi asili sì. nido e dove dovrebbero nascere o sono già in procinto di nascere queste aziende? Si sta collaborando con il comune di Villa Rosa. Si trova? In provincia di Enna. Ok, in Sicilia, beh, giustamente a requisire i beni della mafia sono lì. Sono nelle zone. Quindi lei dedica una parte del suo tempo per ristrutturare queste case, attrezzarle con le macchine che servono e poi spiegare a queste mamme come si fa a lavorare e speriamo, esattamente. E speriamo che questo serva a dare a queste donne un futuro e quindi anche ai loro figli. Piero Picchi, complimenti perché quello che fa lei è importante e speriamo che molti altri ascoltandola seguano il suo esempio. Grazie. Me l'auguro. A presto, grazie Picchi. Prego, prego. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco il traghettatore del Sargante, abbiamo parlato di situazioni critiche di mamme, come dire, al limite della normalità, nel senso che vivendo in carcere hanno decisamente una realtà difficile, ma soprattutto quella dei figli. Abbiamo sentito anche l'esperienza di un imprenditore che sta organizzando delle officine da settembre in qualcuna delle ville requisite alla mafia in Sicilia. Ci saranno delle donne detenute a lavorare, dei bambini che accanto in asili nido appositamente allestiti vivranno una parvenza di normalità. Secondo me siamo in una fase estremamente critica, lo stato sociale si contrae, ma insomma non dovremmo dimenticare che esistono anche questi casi difficili, non vanno abbandonati, così come non bisogna dimenticare, e ne parliamo con Chiara Bisconti, direttore delle risorse umane della San Pellegrino Gruppo Nestlé. Salve Chiara Bisconti. Buonasera. Che nel lavoro, dico, nel mondo del lavoro, in impresa, pubblico o privata che sia, fare lavorare ed essere mamme non è esattamente la cosa più semplice del mondo, ed un imprenditore, in questo caso un gruppo internazionale come quello che lei rappresenta, sta dimostrando una certa, come dire, visione, perché il progetto Primavera, che se non ho capito male parte fra poco, sta partendo, pone particolare attenzione alla mamma nel posto di lavoro, è così? Sì, è così, è vero che è difficile conciliare il tutto, in realtà secondo me dalle aziende stanno arrivando buone notizie, perché il progetto Primavera, come lei l'ha chiamato, è partito in realtà da un po' di anni e entra proprio nel filone di capire come fare a portare più donne in azienda, soprattutto come portarle maggiormente al vertice. È un momento storico in cui le aziende proprio stanno cercando di rinnovarsi e hanno capito che dietro ad avere una composizione più bilanciata del proprio management e delle proprie persone c'è un forte interesse economico e di business. Detto in altre parole, più donne in azienda in posizione di vertice rendono le aziende più profittevoli, per una serie di motivi che poi se vuole possiamo anche Sì, no, per la verità ce le possiamo in parte anche risparmiare, sa perché? Perché sì. Ne abbiamo già parlato in una puntata dedicata proprio a questo, dove avevamo chiamato tetto di cristallo, laddove negli studi anche importanti, Fortune a livello internazionale per esempio, ha sottolineato che le aziende che hanno management femminile vanno anche meglio in borsa. È vero che la donna è più funzionale. Voi però al di là della donna avete anche questo Maternity Kit, che è un progetto di informazione che mi pare di capire dal nome diretto proprio a chi vive la maternità nella relazione con l'azienda. Certo, un'altra evidenza che è più a livello sociale ma è molto forte, e forse ne avete già parlato, che c'è una correlazione tra tasso di occupazione femminile e natalità nel paese. Questo secondo me è un aspetto fortissimo e importantissimo per l'Italia, ci sentiamo in dovere come azienda, come gruppo Nestlé, di partecipare a questo, rendendo veramente più facile nel posto di lavoro la coesistenza della maternità e degli aspetti legati alla maternità al lavoro. Il Maternity Kit, che nel frattempo è diventato un Maternity and Paternity Kit, perché ricordiamoci che parliamo sempre di uno sforzo di genitori. È la diversità, bisogna, no, la pari opportunità. Questo Maternity Kit e Paternity Kit in realtà è un semplice documento che però riassume la filosofia di fondo con cui noi gestiamo le maternità, che è una filosofia di accettazione di questo momento. Contrariamente a qualche anno fa in cui la maternità era vissuta come una tragedia, uno strappo rispetto al lavoro, quello che si è capito è che se si intende il lavoro come più flessibile, sia nella giornata, quindi con gestione di tempo flessibile, ma soprattutto nell'arco della carriera delle persone, la maternità è un momento naturale, molto importante, che quindi può essere gestito con gli stessi strumenti con cui noi gestiamo normali job rotation, cioè avvicendamenti di posizioni, trasferimenti all'estero per qualche periodo, posizioni di progetti, quindi che si staccano da ruoli operativi. Ecco, lei... ecco, la maternità viene gestita nello stesso identico modo. Lei è anche madre, no, lei è una manager, perché comunque ricopre un ruolo importante, è anche madre, ci diceva fuori onda di una bambina di un anno e mezzo, no? Quindi lei obiettivamente non può smentirsi, ma è così. Le faccio l'esempio, sono una mamma, no, ricopro una posizione di top management e lavoro part time, questa è una bellissima cosa da dire, perché mi piace dimostrare come si può fare il part time, non è un tabù, anzi è una delle modalità di lavoro che noi offriamo attraverso il maternity kit a tutte le nostre mamme al rientro, così come offriamo la possibilità di telelavorare. Il concetto di fondo per le mamme, ma che stiamo estendendo a tutto il lavoro, è che il lavoro va valutato sui risultati e non sul tempo che si dedica. Sul tempo, che non ci interessa avere persone in azienda fino alle 9 di sera, ne vogliamo persone produttive, brave, e le mamme, io lo dico per esperienza, non perdono con la gravidanza le loro capacità, tutt'altro, anzi certe volte le affinano, quindi se si mettono in condizione di lavorare dove vogliono, quando vogliono e solo guidate dal raggiungimento dei risultati, le mamme sono delle bravissime lavoratrici, assolutamente al pari con gli uomini, anzi per certi versi il momento della maternità coincide anche con un momento di maturazione manageriale delle persone. Grazie Chiara Bisconti, grazie, la sentiamo bella adrenalinica, la sua vita deve essere difficile ma intensa. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. E a proposito di vita difficile e intensa, c'è chi ne ha fatto in qualche modo un mestiere, fra virgolette, anche se parliamo di un mestiere digitale, quello dei blog, no? Esiste un filone che si chiama mommy blogging, uno dei tanti nuovi termini che la rete ci consegna giornalmente, e per chi conosce l'inglese è proprio il blog delle mamme. E ce n'abbiamo una al telefono, una peraltro famosa, perché Francesca Sanzo, salve Francesca Sanzo, buongiorno a tutti. È stata definita su alcuni articoli di stampa la pioniera italiana di questo. Cos'è il mommy blogging esattamente, allora, Francesca? Mommy blogging è, diciamo, un movimento di mamme che utilizzano il blog per raccontare un po', anche in forma, a volte in forma narrativa, per dare informazioni alle altre mamme, un po' la loro esperienza di mamme, quindi è una sorta di community, di comunità online di tante mamme che in qualche modo si incontrano in rete, no? Ma anche perché non esiste una scuola per le mamme, cioè tu sei mamma per la prima volta, ci dicevamo, di una bambina di 3 anni e mezzo, nessuno ti ha spiegato come si fa a far crescere un neonato, per esempio, non c'è una scuola, non c'è. Assolutamente, assolutamente, bisogna fare tutto da autodidatti, e devo dire la verità, forse è questo poi il bello, nel senso che qualcuno che tenta di insegnarti come si fa lo si incontra sempre, no? Lo si incontra sia nella realtà che in rete. La cosa bella invece è cercare un po' di usare anche quello che qualcuno chiama l'istinto materno, che esiste davvero, nel senso che in qualche modo io fino all'ultimo momento mi sentivo veramente molto inadeguata e impreparata al mio ruolo. Poi in realtà ti rendi conto che, insomma, sono personcine questi bambini, uno diverso dall'altro, quindi applicare le regole generali che magari trovi nei manuali non sempre è proficuo. Ecco, la cosa bella dei blog, secondo me, che si trovano in rete è che molto spesso si parla anche di questo sentimento di inadeguatezza. Mm-hmm. Siamo in un momento, certo, in cui c'è, certo, una grande ansia di perfezione. Per cui, insomma, senti, anche... Francesca, non abbiamo detto che il sito dove tutto questo avviene nel tuo caso si chiama Panza all'aria. Panza all'aria.com. Panza all'aria nel senso momento a panza all'aria, momento di svago. Di svago. E tu ci hai fatto anche uno spettacolo teatrale, nel calzino, ovvero il calzino spaiato, giusto? Sì, la rivincita del calzino spaiato, che appunto fa riferimento al fatto che, insomma, si può vivere bene anche con i calzini spaiati, non importa sempre essere le mamme perfette, le persone perfette, cioè ci sono dei momenti che anche alla mamma, io dico, le puzza un po' l'ascella. Sì, certo. Adesso metafora, lo dico anche, ecco, nel mio spettacolo. Ma certo, poi la prossima volta che lo metti in scena diremo dov'è, così andiamo a vedere. Ma c'è un piccolo risvolto meno divertente, forse sì, insomma, su cui tu sei, mi pare, critica, cioè questi blog poi servono anche a veicolare in maniera più o meno palese e plateale anche della pubblicità sui prodotti, perché quella dei bambini è un mercato importantissimo e costosissimo. Sì, infatti la cosa che sì, io sono un po' critica su alcune forme di marketing virale, che appunto le mamme, adesso è un momento appunto di crisi economica, per cui la mamma e il suo bambino sono dei soggetti molto appetibili, no? Perché nessuno rinuncerebbe a comprare qualcosa per il proprio bambino, per cui le mamme blogger, che in questo momento vengono un po' considerate delle opinion leader vengono anche corteggiate dal marketing, dai mercati, dalle aziende per poter fare pubblicità. Solo che spesso vengono, secondo me, un po' sfruttate, nel senso che non sempre si riesce a capire qual è il confine tra pubblicità esplicita, pubblicità implicita. E diventano veicolo di marketing, esatto, allora insaputo. Esatto. Grazie Francesca della tua partecipazione, a presto. Buona giornata. E grazie anche a Fabio Cantadori in regia e ad Anita Panizza in redazione. Il programma potete ascoltarlo come al solito anche sul sito di Radio 24. Alla prossima, arrivederci.